tuo programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. È stata veramente, diciamocelo, una settimana convulsa, concitata, eccitata, eccitante. Qualcuno ha anche detto, insomma, la politica ha tenuto banco. È un paese questo, qualcuno mi diceva, no? Per esempio in Canada è di solito l'ottava notizia nella classifica ogni giorno, invece qua di solito il primissimo piano questa settimana, poi no, con la separazione tra Fini e Berlusconi, con il voto di sfiducia a Caliendo che poi è stato bocciato, con gli scenari che adesso si profilano, elezioni anticipate probabilmente tra novembre e marzo, con questa proposta, questo programma che Berlusconi vuole sottoporre ai finiani in 4 punti per vedere, dice, riusciamo a ricucire, altrimenti si va al voto. E già i finiani che sospettano adesso ci indurrà insomma a dire di no, a bocciare delle sue proposte, così va dritto al voto. Queste insomma sono tutte le cose, scenari incredibili di questa settimana, e questo per dirvi insomma che ce n'è da dire oggi per commentare insieme i fatti della settimana, non solo politica naturalmente, mi viene da dire, però sicuramente penso che qualche pensiero, qualche opinione, qualcosa che avete commentato anche in famiglia, con gli amici, con qualcun altro o con i colleghi d'ufficio, ci sia da dire. Insomma, il numero verde, e questa è la conclusione, in realtà questo è l'obiettivo, 800 24 00 24, se avete voglia di telefonare e dire liberamente le vostre opinioni, questo è il numero verde, 800 24 00 24, ma devo dire che, come sempre, non posso mancare al rito di dire all'inizio, in coerenza con il titolo del mio programma, che non ci sono più le mezze stagioni. Che cos'è che ce lo dimostra questa volta? Ogni volta c'è un argomento diverso, un argomento nuovo, varie sfaccettature. Beh, in questo caso potrei dire, avete presente purtroppo quello che ormai è definito da tempo il femminicidio costante che c'è in Italia. Ogni settimana, ogni 2 giorni, una donna uccisa dal marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, ogni 2 giorni. Rapporto Eures, e poi un rapporto che viene dall'Europa, Unione Europea, che ha confermato che la prima causa di morte delle donne in Europa, uno pensa morirò di tumore, morirò di incidente, no, la prima causa di morte delle donne è essere uccise dagli uomini, di solito dai propri compagni o ex compagni. Direi che è una cosa, non lo so se viene, ma mi verrebbe dire marziana, invece purtroppo è molto terrena. Quindi a proposito di tutto questo, vi dicevo, non ci sono più le mezze stagioni perché cambiano evidentemente le modalità. Finora abbiamo sentito, appunto, fino a questi giorni, fino all'altro ieri, l'ex marito l'ha cercata la madre, l'ex fidanzato, no. In questo caso cos'è successo? Un uomo, pugile come hobby, è stato lasciato dalla fidanzata ieri. Che cosa ha deciso di fare? Quindi non ha ucciso la fidanzata, dice alla madre, scendo e ammazzo la prima donna che trovo, e così effettivamente ha fatto. Una povera donna quarantenne filippina che passava di lì ha cominciato a prenderla a pugni, l'ha massacrata, le ha praticamente sfondato le ossa del viso e della testa, e dopodiché anche quando sono arrivati gli agenti ha continuato insomma nel suo intento. La poveretta naturalmente è morta, ma questo per dirvi, no, che uno dice ma siamo tranquilli, più o meno le cose avvengono sempre nello stesso modo, si ammazzano sempre nello stesso modo. No, questa volta diciamo c'è un salto di qualità, qualcuno potrebbe dire. Insomma, a proposito di questo, leggevo qualche giorno fa che c'è un gruppo di scienziati che sosterrebbe che il cromosoma Y, che è quello tipicamente maschile, mentre la X è quella appunto appartenente al genere femminile, dicono che il cromosoma Y sia una X mal riuscita, difettata, danneggiata, e vi dirò che in base a queste notizie viene fortemente il sospetto che sia vero. 800 24 00 24 è tempo non solo di sentire i vostri commenti sulle notizie della settimana, ma anche, signore e signori, di presentarvi il mio opinionista estemporaneo di oggi. Stefano Andreoli. Buongiorno, ciao a tutti. Hai più conosciuto come Spinoza, anche se questa non è millanteria, nel senso non sei il filosofo del Seicento, scomunicato, eccetera, eccetera, no Stefano? Però ovviamente no, diciamo che ne porto le insegne in qualche modo. E ti sei fortemente ispirato. Stefano Andreoli, chiariamo subito, è blogger, per chi non avesse una certa dimestichezza con i termini tecnologici, insomma cura, sapete, un suo diario. I blogger sono quelli che hanno dei diari su internet, questo diario che appunto è Spinoza.it, enigmista, umorista, collabora col Fatto Quotidiano e la trasmissione Tetris che va in onda sulla 7. Nel tempo libero, leggevo questa cosa di te Stefano, nel tempo libero frequenta anche un ufficio dove viene guardato con sospetto. Sì, questa è la verità, purtroppo in tutte queste cose è difficile trovare il tempo per lavorare. Ecco. Cerco di fare perché bisogna pur distrarsi ogni tanto, per cui... Quindi si stupiscono quasi che tu sia lì, per questo ti guardano con sospetto. Dico, come mai è venuto a lavorare lo Stefano? No, infatti lo Stefano non riconosciuto dagli stessi colleghi, però. Invito tutti a lavorare ogni tanto, distrae, fa bene, è una cosa salutare. E poi nobilita l'uomo, non la donna, secondo me, ma l'uomo lo nobilita, il lavoro. E adesso Spinoza, o meglio Stefano Andreoli, insieme ad Alessandro Bonino, giusto, perché curate insieme. Esatto, questo... siamo una coppia comica, diciamo. Con Alessandro Bonino, grande sintonia evidente tra di loro dal 2005, quindi curano Spinoza.it, che è il blog satirico più seguito della rete, o è troppo dire una cosa del genere? No, direi di sì, non è che ci siano tantissimi blog satirici, questo ha una particolarità forse che lo rende unico, è il fatto di non essere scritto da noi, ma di essere fatto dai suoi stessi lettori, ovvero chiunque può inviare battute su argomenti di attualità che poi vengono scelte e pubblicate. Poi volevo dire che ha avuto anche a testimoniare in realtà, no, che ha un certo valore, diciamo, questo blog. Stavo leggendo che è stato eletto miglior blog italiano al Blog Fest del 2009, quindi l'anno scorso ha avuto anche un grosso riconoscimento, almeno nel vostro ambito, Stefano. No, infatti è proprio per quello che ti dicevo, c'è un grosso seguito proprio perché i lettori sono coinvolti in prima persona nel formare quelle che poi è il nostro più che diario un notiziario, ovvero un notiziario satirico che prende però spunto dai fatti realmente accaduti in Italia e nel mondo. E il fatto di avere questo grosso pubblico ci ha permesso di vincere appunto questo premio, che speriamo di vincere anche quest'anno. Senti, la politica diciamo che è una fonte inesoribile in Italia, quantomeno, no, per voi? Ah beh, sicuramente la situazione è favorevole da questo punto di vista e solo da questo, temo. Però Stefano, devo dire che ci sono intanto la cosa nuova è che è nato un libro da questo sito Spinoza.it che si intitola Spinoza, un libro serissimo, a Liberty Editore. Allora vado a vedere subito le premesse di questo libro per dirvi un po' insomma di cosa si tratta, già da qui si capisce molto. Allora, intanto viene definito come il libro umoristico con più autori dopo la Bibbia e il programma del PD, quindi da questo insomma ci dice. E poi è un'opera con così tanti autori che sarà impossibile querelarli tutti, quindi io un pochino diciamo mi inoltro in questa puntata con un po' di preoccupazione. Non c'è nulla da temere, stiamo molto attenti. Anche se gli autori effettivamente sono una piccola legione, sono più di 700 gli autori che hanno contribuito a questo, al blog e successivamente a questo libro, che è una raccolta del meglio del blog, oltre a numerosissime battute inedite sugli ultimi due anni di politica, di cronaca, di attualità italiana e internazionale. Più di 2000 battute. Ecco, infatti a proposito di queste battute, adesso per fare un po' di par condicio, ne cito giusto due nel corso insomma della vostra attività degli ultimi mesi. Una è questa: Veronica Lario si separa da Berlusconi, due punti, beata lei che può. E poi invece un'altra dall'altra parte, a proposito del caso Marrazzo, di una cosa bisogna dargli atto, cioè a Marrazzo è sempre stato dalla parte dei consumatori, quindi ce n'è diciamo un po' per tutti a destra e a sinistra. Vedo già moltissime telefonate in linea con la padrona dei telefoni oggi, Valeria Cuffaro, ce ne sono molti, c'è Patrizia da Cuneo, Ferdinando da Magenta, Giuliano da Chieti e il numero verde è sempre quello 800 24 00 24. Stefano, devo dire che quindi insomma oggi so che sei stato in un ritiro particolare, quindi spero tu sia aggiornato su tutto, però voglio dire, di materiale ce n'è anche oggi. Sì, certo, per commentare. Ho dato un'occhiata poco fa ai principali siti, vedo notizie, diciamo, maggioranza divisa, il PD non sa cosa fare, indagini sulla P2, insomma i palinsesti estivi spesso abusano delle repliche come in questo caso, ovvero sono tutte cose più o meno già sentite che però ci fa piacere continuare a commentare. Bene, mentre allora Stefano Andreoli si scalda, che comunque non ne ha bisogno, tra pochissimo le vostre telefonate, però come sempre per avere tante angolazioni diverse anche un parere extraterritoriale, extraterrestre diciamo. Riflessioni da Marte. Anche questa settimana, quassù da Marte, no, affacciandosi verso il globo terracqueo, è stato possibile ovviamente seguire le meravigliose sorti progressive della Terra. Quello che non finisce di sorprendere, va detto, è soprattutto l'implacabile iperattività umana. Chi si ferma è perduto, si dice, ed è per questo che la British Petroleum, la società responsabile della marea nera nel Golfo del Messico, il più grave disastro, sapete, ecologico di sempre per quanto riguarda la fuga di petrolio, dicevo, è poiché chi si ferma è perduto che la British Petroleum, appena trovato dopo 4 mesi di inutili tentativi il tappo giusto per la falla, ha deciso di non perdere tempo e di vedere con grande slancio intraprendente dove altro portare immediatamente le sue inarrestabili trivelle. Ma nel Mediterraneo, naturalmente, dove altro poteva portarle? Le prossime trivellazioni della iperattiva BP avverranno quindi a 500 chilometri dall'Italia, proprio qua, quasi di fronte, e che il cielo dirà tra gli scongiuri qualche esemplare italico, ce la mandi buona. Ma sì, in fondo la sensibilità ecologica nel mondo negli ultimi tempi è senz'altro cresciuta, diciamolo. Pensate che tra Libano e Israele, per il taglio di un albero, stava per scoppiare una guerra, per motivi ecologici, naturalmente. Sentiamo i momenti drammatici dell'abbattimento dell'albero. Qualcuno ha pensato che fosse un seguito del problema del disboscamento mondiale a partire dall'Amazzonia e non ci ha visto più, bisogna dire. Ma a volte le cose, si sa, si fraintendono. I malintesi sono dietro la porta, del resto anche dietro la finestra a volte. L'importante però poi è chiarirsi. Come è avvenuto in Iran, sembrava una bomba quella fatta esplodere in questi giorni al passaggio del corteo del presidente iraniano Ahmadinejad, ma il suo entourage ha presto chiarito. Che cosa ha detto? Era solo un petardo che un ammiratore del presidente ha lanciato in un impeto di gioia. Un petardino, insomma. L'Italica penisola è intanto alle prese però con ben altre questioni, ma quel che conta è che spunta sempre fuori in Italia, ci avete fatto caso a questa cosa? Spunta sempre fuori in Italia l'esigenza di un terzo polo nella TV che si incunei tra Mediaset e Rai, un terzo polo nella politica, tra poco un terzo polo tra Polo Sud e Polo Nord. La verità, diciamolo, è che molti italiani fagocitati dalla crisi economica in realtà possono semmai giusto permettersi un terzo pollo invece che un polo, anzi a pranzo, a dire il vero, appena un terzo di pollo. La soggettiva del pollo arrosto che guarda il mondo mentre si gira tra le ditate degli affamati che ormai si leccano la vetrina. Già mezzogiorno con le patate dell'altro ieri resuscitate dal forno. Ritorniamo coi piedi per terra, va che meglio. 800 24 00 24. Proseguiamo allora, cominciando a fare i commenti dalla vostra viva voce di ascoltatrici e ascoltatori. Dicevamo per prima Patrizia da Cuneo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Dunque, io sono una psicoterapeuta e ho ascoltato questa trasmissione anche l'altro giorno, avevamo iniziato un po' a parlare, poi il tempo era troppo breve. Sì, eravamo proprio in coda, 4 secondi erano, sì. Ma intanto direi che il caso di questo ragazzo qua non mi sembra proprio un diretto caso di causa-effetto, lei lo lascia, lui quindi ammazza. Probabilmente dietro c'è qualcosa di un po' più spesso, magari una patologia non riconosciuta in anticipo, eccetera, eccetera. Patrizia, no? Ma allora è veramente, cioè, diciamo che è un stato di, come si potrebbe dire, di patologia permanente quasi in Italia per molti uomini, tutto questo femminicidio, questi reati che avvengono costantemente, cosa dobbiamo pensare? Sì, l'inquinamento? Penso che sia una scarsa informazione sulle patologie mentali, quindi iniziamo a considerare i tratti anomali come facendo parte di del proprio carattere, quindi in qualche modo vengono giustificati, ma lui è fatto così, no? E quindi la donna inizia in qualche modo a giustificare dei comportamenti magari anche un po' strani, l'uomo li perpetua fino ad arrivare a dei livelli non più controllabili in qualche modo, no? In più c'è un discorso legato a come viene visto nella nostra società il concetto dell'amore, che è legato, appunto, una questione di cultura, no? Soprattutto, anche, più che di patologia. Sì. Cultura, anche la famiglia dove viviamo sicuramente, no? O comunque l'amore è legato al tempo, quindi l'amore è bello se dura per sempre, quindi molto più difficile diventa in un contesto del genere pensare ad un amore che può finire o ad accettare un rifiuto. Senti, però, perché si parla sempre in modo un po' neutro, no Patrizia, un po' in generale, diciamo anche le cose come stanno, cioè, non mi sembra che negli ultimi anni sia capitato con una tale frequenza ogni due giorni che una donna ammazzasse un marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, e non facciamone solo una questione di forza fisica, perché esistono anche le pistole, esistono anche i coltelli, non è che una per forza, no, deve riuscire. Ma l'uomo usa la sua forza per dimostrare la sua potenza, il suo potere, ha bisogno, quindi di base c'è sicuramente una scarsa autostima, quindi dimostro con la forza quello che con il resto non riesco assolutamente a fare, no? Per esempio già solo il concetto del ragazzo che va un sacco in palestra, che se da un lato può essere una cosa molto salutare eccetera eccetera, nulla togliere alle palestre chiaramente, no? Però no, come se a dimostrare proprio che sia il corpo forte, quindi in qualche modo violare la libertà altrui mi fa sentire più potente in qualche modo, no? Tenendo sempre a mente che le donne scelgono quel tipo di uomo lì, ok? Non è che da un giorno all'altro questo... Patrizia, qualche segno ma lo dà anche prima. Guarda, però, così qualcuno è vero che dà qualche segno prima, ma tanti sono veramente poi a sorpresa, nel senso che una volta che ti sei messi accanto, certi sono capaci anche molto di simulare in una fase iniziale, Certo, ma la schizofrenia, ripeto, è una cosa da un momento all'altro, come si suol dire, quindi certo, sì, ci sono dei casi, ce ne sono anche tanti, la popolazione è ricca di questi casi qua, però c'è poca informazione, si pensa che siano molto lontani o distanti da noi, invece circolano tranquillamente tra di noi. Io direi però, Patrizia, io ti ringrazio molto per il tuo punto di vista, che è un punto di vista professionale, però credo che sia anche tanto di più una questione di cultura, visto che è così diffusa, no? E più che educazione sessuale nelle scuole, se ne parla da tanti anni di farla, neanche quella si fa, proprio educazione sentimentale, proprio far crescere le bambine e i bambini, in particolare i bambini, anche proprio col senso di rispetto reciproco, di parità, no? di cos'è veramente lo stare insieme, dell'amore, di non far sentire che c'è una categoria di serie A e una di serie B. 800 24 00 24, grazie Patrizia. Siccome oggi è proprio anche grande fine settimana di Esodo, sentiamo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando. Ciao, sono Cristina. Vuoi gusto, salute e poche calorie? Bevi come me gli Elisir di Rocchetta. Vi presenta Strade in diretta. Traffico ancora molto intenso lungo la 14 Adriatica, in carreggiata sud, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, poi ancora da Faenza fino a Riccione e ancora code a tratti in Puglia tra Cerignola e Canosa verso Bari. Disagi verso la Svizzera sulla 9 con code tra Lainate e Saronno, in corso la rimozione di un veicolo in avaria, ripercussioni sulla 8 con code dalla barriera di Milano Nord, poi ancora lunghe code circa 8 km alla dogana di Chiasso in uscita dall'Italia, attese anche verso la Francia al traforo del Monte Bianco, circa 90 minuti di attesa. Auto in fila sulla 4 verso Trieste lungo il passante di Mestre da Preganziole, poi ancora code tra la barriera di Venezia Est e la Tisana, verso la Slovenia altre code circa 10 km alla barriera di Trieste Isert. Sull'autosole verso sud code a tratti e rallentamenti verso Firenze lungo tutto il tratto appenninico, code a tratti invece per chi è diretto a Bologna tra Firenze, Certosa e Roncobilaccio. Lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria verso sud code tra Salerno e Ponte Cagnano e tra Rogliano e Falerna. In Liguria, incolonnamenti sulla 10 dei Fiori tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code di 5 km sulla 15 della Cisa in direzione La Spezia tra Aulla e l'innesto per la A12. Andiamo infine sulla 22 del Brennero, rallentamenti e code a tratti per molti chilometri in direzione nord tra Mantova e Rovereto e da Trento a Degna Ora, verso Modena code fino a Vipiteno dopo il confine e tra Chiusa e Degna Ora. È tutto per il momento, noi torniamo tra mezz'ora. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre insieme Roberto Giordano con voi, e c'è il mio opinionista estemporaneo di oggi che è Stefano Andreoli, che è un blogger, un enigmista, un umorista, collabora col Fatto Quotidiano, cura insieme ad Alessandro Bonino questo sito, che è una satira veramente molto poco corretta politicamente, spinoza.it, dal quale è nata anche un libro, Spinoza, un libro serissimo a Liberty Editore. E stavo dicendo nelle premesse, si diceva appunto il libro umoristico con più autori dopo la Bibbia e il programma del PD, e ancora leggo il libro più sgradito del governo dopo la Costituzione, quindi molto, diciamo, al vetriolo. E poi c'è anche la prefazione di Marco Travaglio a questo libro, che dice: appena leggo una battuta della banda di Spinoza.it, finito di leggere mi incavolo, lui dice, un'altra cosa con me stesso, perché avrei voluto inventarla io. Pensate, geniali questi autori di Spinoza.it. Ci sono sempre gli ascoltatori e le ascoltatrici al numero verde per commentare insieme, come sempre qui il sabato, i fatti della settimana, 800 24 00 24, e darei spazio a Giuliano da Chieti. Pronto Giuliano? Pronto? Sì, siamo qui. Sì? Sì. Pronto, ecco, chi parla? Sono in diretta. Sei in diretta, Giuliano, prego. Buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori. Sì. Buon Pronto, pomeriggio. Mi sentite? Ti sentiamo benissimo, Giuliano, proprio meglio di così non si Perfetto. Potrebbe. Prego. Perfetto, sì. Niente, io cercherò di essere brevissimo. Non mi pare una buona premessa, comunque procediamo, Giuliano, prego. Prego. Allora, niente, mi ricollego un attimo alle vicende che si stanno succedendo in questi giorni, sì, in fatto di politica. Sì. Io premetto che sono un votante del PDL, mm-hmm, nonché ho anche sostenuto la leadership di Berlusconi quando lo dovevamo scegliere come premier. Ahimè, sono rimasto deluso, diciamo, in particolare come me. Io sono un semplice operaio, ma come tante persone come me, evidentemente in molte trasmissioni un fatto probabilmente non è stato mai menzionato o accennato. Fallo tu. E cioè, riguardo ai Finiani, no? Io credo che sarebbe uscito più sereno anche Fini, dico, perché non abbiano fatto andare sotto il governo quando era il momento in cui si doveva votare la finanziaria, in modo da riprendere le carte in mano poi con un altro governo di transizione, oppure si andava direttamente alle elezioni. Cioè, questo fatto non è stato menzionato da nessuno, ma io credo che anche Fini ne sarebbe uscito più sereno e forse anche più forte, probabilmente. Ma, senti, Giuliano, evidentemente non era con qualcuno della classe politica attuale. No, Giuliano, però evidentemente non era obiettivo di Fini far cadere il governo, sennò appunto avrebbe avuto altre occasioni, e poi non sarebbe voluto uscirne in realtà da questo governo, perché è stato, diciamo, proprio esplicitamente espulso da Berlusconi, non è che se n'è andato, diciamo, con le sue gambe, come si dice, Giuliano. Diciamo che molte riforme, tra cui anche quelle menzionate da Bossi, sono succedute dopo l'insediamento, perché non erano nei programmi. Senti Giuliano, mi senti? Giuliano, una patata bollente da risolvere. Sì. La patata bollente. Oh, meno male. Mi senti? C'è vita da quella parte. Volevo dirti, Giuliano, ma tu hai detto ti ha deluso Berlusconi, però poi hai parlato di Fini. Ma in cosa, per esempio, ti ha deluso Berlusconi? Sì, no, Berlusconi, vabbè, è una leadership ormai sappiamo, è un grande statista. Ma io credo che più che altro Fini, perché già sappiamo le vicende che si susseguono da diversi anni ormai, e quindi probabilmente questo tipo di governo non poteva reggere più di tanto, così allargato, e quindi credo che sarebbe stato molto meglio non arrivare ad oggi, ma bensì arrivare al punto cruciale, che era la legge finanziaria, dove ci si poteva lavorare sopra meglio e con più calma, con un altro governo più solido, quello che gli italiani avrebbero voluto. Perché secondo il mio parere, come me, io sono rimasto deluso da alcune leggi che hanno introdotto, che comunque non... Per esempio, fammi un esempio, Giuliano, siamo concreti, siamo circoscritti. Chiari, ecco. Prego. No, dico un elemento, una cosa che ti ha deluso. Dimmi. In particolare, già se vogliamo, per quanto riguarda le privatizzazioni, queste cose qui in generale, ma anche nel privato, nel pubblico, un po' in generale, poi anche il federalismo fiscale soprattutto, anche perché con l'euro io credo che non eravamo e non siamo ancora pronti ad accettare questo peso, questo macigno. Evidentemente non eravamo pronti neanche nel 2001, queste erano parole di Berlusconi, le ripeto, e forse era una cosa giustissima, dovevamo essere più attenti e lasciare il tempo che trovi, come altri paesi europei che sono entrati dopo, che ora come ora probabilmente stanno meglio di noi. Grazie Giuliano. Abbiamo dovuto comunque dare. Grazie Giuliano, buona continuazione, buone vacanze se le farai. 800 24 00 24, Stefano Andreoli, hai qualcosa da dichiarare? Certamente sì, intanto salutavo Patrizia da Cuneo, la psicoterapeuta che è intervenuta poco fa, dicendo anche che Cuneo è la patria del mio socio Alessandro Bonino. E dove ha fatto il militare Totò, fra l'altro. Esatto, da bravi uomini di mondo. In pratica Patrizia ci ha dato delle opinioni molto precise, molto condivisibili, soprattutto ci ha detto che chi passa ora in palestra non è sano di mente, cioè sai che scoperta, voglio dire. Mentre invece Giuliano Dacchieti, parola anche sul suo ultimo intervento, tu sai che lavorando in radio quando un ascoltatore comincia dicendo cercherò di essere breve, bisogna subito preoccuparsi immediatamente. Ecco. Ma lui in realtà ha detto cercherò di essere brevissimo, poi smentendosi ancora di fatti, più, quindi. Poi si è smentito coi fatti, quindi è il perfetto elettore di Berlusconi. Rispetto comunque a quello che ha detto, non c'è niente da dire, se non che alla fine il governo resta unito perché il potere è un ottimo collante, a meno che non si parli del centro-sinistra. In questo caso sono tutti uniti prima di averlo e poi si separano appena lo annusano. Il paradosso italiano. E meno male che diciamo il mondo è bello perché è vario. Se facessero tutti la stessa cosa, probabilmente invece gli uni lasciano spazio agli altri e così via. Insomma, ci si compensa. Sempre al numero verde 800 24 00 24 c'è Ferdinando da Magenta, quindi provincia di Milano. Siamo? Sì. Ferdinando, eccoci. Pronto, buongiorno. Buongiorno Ferdinando. Senta, due cosine corte. Corte, te lo dici anche tu, mi devo preoccupare che con te, è allarmante questa cosa. No. Numero uno, mi vergogno di essere un uomo per quello che ha fatto quel balordo lì che ha ammazzato quella signora. Immagino la sofferenza di quella signora. Numero due, perché gli uomini quando vedono che un uomo o due persone fanno a botte, devono intervenire, devono separarli. Se quella lì fosse stata aiutata non sarebbe morta. Numero tre, consiglierei al magistrato di acquisire il fascicolo personale a livello psichiatrico di questa persona, perché la psichiatria col passare degli anni è diventata una malattia solo per chi ha i soldi, cioè vengono curati, l'altro va lì, gli danno la pilloletta, gli fanno quattro domande e lo mandano a casa. Se noi vogliamo fermare la violenza, dobbiamo anche prevenire la violenza. Chi è malato va curato. Sì, è giusta la prevenzione, Ferdinando, ma non sono così convinta che sempre tutto sia attribuibile a questioni patologiche mentali. Io penso più che sia una questione culturale, il senso del possesso, il complesso di superiorità che hanno tanti uomini, il fatto di voler gestire proprio anche per debolezza personale e per diciamo un'educazione, una crescita piuttosto bloccata, immatura, che hanno moltissimi uomini, dipende dal modo in cui si tirano su, come li si educano, che poi hanno questo atteggiamento nei confronti delle donne, che è diffuso, poi precipita sempre più spesso, almeno in Italia ma anche in altri paesi, addirittura nel delitto, ma diciamo che anche senza bisogno di ammazzare, insomma, spesso gli uomini hanno certi atteggiamenti quando sono in coppia, non tutti per fortuna, non per esempio Ferdinando da quello che dice. Ti ringrazio Ferdinando e poi adesso sempre al numero verde 800 24 00 24 sentirei Andrea da Lecco. Pronto? Ci siamo Andrea. Ah, bene. Buongiorno Roberta. Buongiorno a te. Io sempre volevo riagganciarmi all'argomento che tu hai nominato inizialmente come femminicidio. Vorrei dare una spiegazione abbastanza di ampio respiro. Sì. Cioè, secondo me c'è in Italia, ma non solo in Italia, io faccio l'esempio dell'Italia, un cattivo giornalismo televisivo che sortisce una sorta di spot, di pubblicità in diretta e implicita per molte menti labili, molte anche menti bacate, si può dire. Ne faccio qualche esempio nel concreto. Sì. La settimana scorsa, due settimane fa, venne stuprata una veterinaria a Torino. Sì, ricordo, mentre correva. Che faceva jogging. Mm. Il telegiornale, per presentare questa notizia, cos'è che fece? Nel enunciare il fatto, mandava pubblicamente in televisione delle riprese di donne da sole che facevano jogging. Le riprendeva dal dietro, riprendeva il fondoschiena, riprendeva i fuseau, queste donne da sole che si avventurano in questi viali isolati. E sovrapposto a questo contenuto visivo c'era il racconto di come si era consumata la tragedia, di come sì. si era consumato lo stupro. Le faccio un altro esempio. Quando accade una vicenda di pedofilia, i telegiornali diffondono immagini dei bambini al parchetto che vanno sulle altalene, fanno vedere le gonnelline delle bambine e via dicendo. Questo è una sovrapposizione di contenuti letale, assolutamente letale per tanti menti baccate. Credo che tu abbia abbastanza ragione, Andrea. Questo è un altro punto di vista, ancora, diciamo, uno dei risvolti di queste vicende. È vero che a volte la televisione, che va attraverso le immagini, ama scavare nel torbido e anche presentare un po' il morboso, e non si rende conto anche di una grossa responsabilità che hanno, che abbiamo noi giornalisti, ma anche chi fa film, documentari, eccetera, che è quello veramente di far scattare poi la morbosità, e se c'è anche un piccolo indizio di perversione in qualcuno, la voglia poi di emulare. Questo è vero, Andrea, se ne è parlato qualche volta, ma sembra che non ci sia nessuna sensibilità su questo argomento. Dei fatti di cronaca, che è un po' come soffiare sul fuoco sì. in certi ambiti di persone poco equilibrate. Così, è passato un attimo e sono di nuovo con voi, Roberta Giordano, poi il mio opinionista estemporaneo di oggi, è uomo, diciamo, abbastanza avvezzo a dare opinioni in modo piuttosto lapidario, laconico, sul suo blog spinoza.it, che cura insieme ad Alessandro Bonino e che è diventato un libro, Spinoza, un libro serissimo. Sempre il numero verde 800 24 00 24 per fare un bilancio, come sempre, fino alle 15 insieme sui fatti della settimana. Diciamo che adesso i temi che hanno tenuto campo in questa prima mezz'ora sono appunto la questione Fini Berlusconi e poi questo delitto di ieri a Milano di quest'uomo che ha ammazzato di botte la prima donna che passava perché lasciato dalla fidanzata. Stiamo parlando anche di un problema profondamente culturale, purtroppo. C'è Maria Rita da Roma adesso. Maria Rita. Sì, ciao Roberta. Ciao Maria Rita. Allora, io appunto volevo raccontare anche un pochino della mia storia, cioè io ti premetto, nel 2004 io ho deciso di chiudere la storia con una persona con la quale stavo. Sì. E da quel momento è cominciato il mio martirio psicologico e spesso anche fisico, nel senso, comunque era un tormento continuo, mi controllava il telefonino, tant'è vero che ho dovuto buttare una scheda per non mettere in mezzo alcuni colleghi, colleghe, perché di una fobia assurda. E lui diceva che in tutti i casi io dovevo rimanere con lui anche a costo di mettermi sulla sedia a rotella, sulla sedia a rotelle, dice, così ti mi prendo cura io di te e non ti muovi vicino a me. La cosa, diciamo, che poi ha fatto scattare, ti premetto, io ero terrorizzata, cioè io sono una persona molto intelligente, molto attiva, tutto quello che vogliamo, eppure mi ha fatto vivere nel terrore, non ero capace di reagire, cioè non ero capace di andare dai carabinieri perché avevo paura. No, è l'esperienza di moltissime, lo so sì. Che è facile più dirlo, che bisogna vincere questa paura e denunciare, che non, però. Sì, non ce l'avevo fatta. Poi diciamo che quello che mi ha fatto scattare la molla è che una sera io stavo dormendo, all'improvviso mi ha presa e mi ha messo le mani al collo e mi stringeva. A un certo punto si vede che ha avuto un barlume di intelligenza, non lo so, perché quando ero diventata quasi cianotica si è reso conto che forse era il caso di lasciare. Ci ho messo un bel po' a riprendermi e ho passato una notte bruttissima, e a distanza di qualche giorno l'ho visto di nuovo con gli occhi un po' da matto che voleva ricominciare. Ho cercato di uscire con calma di casa, lì è stata un po' una storiaccia perché lui mi ha chiusa dentro casa, l'ho spiazzato perché ho reagito anch'io con le mani. Ma dimmi una cosa, Maria Rita, quindi insomma una situazione orribile, difficilissima, che appunto è comune a molte donne, ma tu quindi che cosa hai fatto alla fine, qual è stata, cioè cosa ti... La fine è stata che io sono riuscita, cioè mi sono salvata, te lo dico, perché se diciamo giorni prima mi aveva messo le mani al collo, se quel giorno mi prendeva, per me forse andava anche peggio, perché lui non si rendeva più conto neanche delle azioni. Per cui quel giorno mi sono salvata perché c'erano i miei vicini di casa, sono riuscita ad uscire di casa e mi sono fatta quasi 50 minuti di strada a piedi dal paese, cioè dove stavo, fino al paese. A quel punto ho chiesto l'intervento dei carabinieri. Sì, ecco, nonostante ciò avevo paura, volevo tornare via da loro. E il capitano è stato gentilissimo perché mi ha detto: no, lei adesso rimane qui e mi spiega tutto quello che le succede. Io l'ho spiegato, lui molto carinamente ha chiamato il tizio, gli ha fatto firmare un esposto dove lui diceva che non mi cercava, che non mi guardava neanche da lontano. Ma è bastato? È bastato questo, Maria Rita? Con lui sì, devo essere sincera, mi sono salvata perché erano i carabinieri di un paese. Lui ha avuto la diffida proprio ad entrare in quel paese, lui il capitano gli disse. Quindi era un ambiente più circoscritto, più piccolo che non una città grande. Per esempio. Mia amica che invece vive in città non è servito a niente, ancora è tormentata, ancora lui la pista di botte di nascosto in modo che non possa vedere nessuno ed è la parola sua contro quella di lei. Io non so come aiutarla, Corella, non lo so. E nonostante questo abbia già delle denunce dai carabinieri, no, è una situazione veramente non siamo tutelate, questo è il nostro dramma. Cioè, se una donna viene e ti dice ho paura, mi sta succedendo qualcosa, ho paura, secondo me dovrebbero avere più tutela. Credo anch'io, Maria Rita, credo che si parla di tagli, di cose, ma di stanziamenti in questo senso, visto quello che è un fenomeno è terribile, è costante, qualcosa bisogna pur fare, altrimenti davvero le istituzioni sono responsabili a loro volta. Maria Rita, io ti ringrazio di aver raccontato una cosa che ovviamente non è assolutamente facile raccontare, ma io spero che in qualche modo serva a far sentire le altre meno sole, sembra insomma una cosa banale da dire, ma sì, è così, e che in qualche modo un po' la coscienza le risvegli di quelle che appunto sono un po' poi ottenebrate da questo circolo vizioso che si crea. Grazie Maria Rita. Figurati. Grazie, grazie, buona grazie. Fortuna, ciao Maria Rita. Graziano da Lucca, sempre il numero verde 800 24 00 24. Pronto? Ce l'hai presente la tua notizia, Graziano? No, sì? Stessi pensando. No, niente, non sapevo se entrare adesso, comunque. Sì, sì, ora, Graziano. Grazie. Complimenti per la trasmissione, volevo dare un mio parere sulla vicenda di Fini e Berlusconi. Sì. Fini, ormai la destra credo che non fa più parte da 15 anni, credo. Io sono un elettore premesso, sono un elettore PDL, proprio di quello che ci credevo veramente. Di Berlusconi mi è piaciuto l'80%, l'unica cosa che non mi è piaciuto proprio per niente, che sta portando dentro tutta la massoneria che c'è in Italia, e quello mi dispiace. Siccome ho avuto una brutta esperienza io con la massoneria, e non mi piace questa frangente qui. Una persona che è indagata deve essere condannata, anche se è un massone. Poi da lì in poi il popolo deve essere tutto uguale. Grazie Graziano da Lucca. Io volevo invece ricoinvolgere Stefano Andreoli, se vuoi commentare direttamente qualcosa che è stato detto adesso, oppure io vedevo anche dalle prime pagine dei giornali, in realtà ieri credo che abbia iniziato dando la notizia all'Unità sulla prima pagina, ma poi oggi lo vedo sia sulla Stampa nel commento di Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, col suo buongiorno, sia su Repubblica con Francesco Merlo, anche lui penna molto corrosiva, sulla proposta della ministra della cultura e dell'istruzione Gelmini di dare la laurea honoris causa per la comunicazione in comunicazione, scienze della comunicazione, al leader della Lega Bossi. Sì, questo è un fatto che ha solleticato molto la fantasia dei lettori di Spinoza. Una laurea per Bossi è un titolo bellissimo, potrebbe essere il titolo di un reality. La Gelmini ci si chiede perché abbia avuto questa idea di dare una laurea honoris causa a Umberto Bossi, forse per distogliere l'attenzione dalla propria. La laurea proposta è in scienze della comunicazione. Qualcuno ha ipotizzato che questa laurea sia dovuta ai decisivi progressi nell'espressività del dito medio, perché ovviamente Bossi è un esperto anche della comunicazione non verbale. Se vogliamo dare un parere serio, no, direi che ho già detto tutto. Tornando ai discorsi che abbiamo fatto in precedenza, Maria Rita da Roma ci ha raccontato con la voce rotta questa storia. In effetti l'amore incondizionato a volte porta a queste forme estreme di amore, a volte portano a distacchi che poi sfociano in atti violenti, ma adesso basta parlare di Fini e Berlusconi, parliamo dei casi appunto citati qui. Ecco, è stato un altro tipo di separazione, sì, ma sembra che i due non si cerchino più di tanto, insomma. No, in effetti è vero. Vediamo quanto si molesteranno, magari. Abbiamo visto che forme, tutto questo, tutti questi atti violenti, dicendo una cosa seria, partono da forme che negli occhi di questi criminali, di questi personaggi non sono altro che forme estreme ed eccessive di amore. Non lo chiamerei amore, sai, è proprio il contrario dell'amore, questo è il problema. Agli occhi di chi compie queste cose turpi, sicura, probabilmente lo è, e questo è una cosa che deve far preoccupare. Infatti io propongo da molti anni di abolire definitivamente il concetto, l'espressione di delitto passionale, veramente, chiamiamolo un crimine, un delitto orrendo, ma non definiamolo in questo modo, perché è sempre qualcosa di giustificativo, di romantico, di epico in fondo sotto sotto. Ritorniamo al numero verde 800 24 00 24, sempre per continuare insieme a commentare i fatti della settimana, e c'è Milena da Genova. Buongiorno. Buongiorno Milena. Allora, io metterei un po' insieme tutto quello che ho ascoltato fino adesso, che più o meno sono d'accordo, nel senso che, vabbè, iniziamo dalla famiglia, con crescere i bambini con un amore che sia sano, pulito, che non sia morboso, e di lasciare comunque la libertà, gli spazi che ciascuno è giusto che abbia nella vita. Seconda cosa, direi comunque innanzitutto che esiste anche la malattia mentale, perché ci sono queste persone che comunque perché poi la malattia mentale è una serie di concause, è un bagaglio familiare, è una situazione che si crea, il tipo di vita, non è necessariamente patologia, può diventarlo, però inizialmente possono essere anche gli ambienti familiari che possono deviare la mente di una persona, senza che necessariamente ci possa essere una patologia di base. Non so se riesco a spiegarmi. Senti, però Milena, quello che voglio dire io è che, siccome, non so, per esempio anche Zapatero, quando si è insediato la prima volta al governo, ha detto che la sua priorità assoluta era combattere la violenza contro le donne, quindi io non ci credo a questa proliferazione infinita di patologia mentale. Io credo che sia una questione profondamente culturale, se non si cambia il modo di pensare soprattutto degli uomini, che crescono anche da bambini, spesso, non tutti per fortuna, un po' con questo delirio di onnipotenza. E tanti pedagoghi dicono, con l'incapacità di avere delle frustrazioni, di essere in qualche modo contrariati, specialmente da una donna, come si permette una donna, no? Oppure a lasciarmi, a prendere una vita autonoma, quando è con me che deve stare, se non la posso avere io non la potrà avere nessuno, capisci? Ma infatti, diventa troppo giustificativo la patologia mentale, se no siamo tutti pazzi. No, ma assolutamente, no. Però infatti è dalla famiglia, che poi con l'educazione della famiglia, che un bambino cresce, il bambino poi sarà l'uomo del domani. Però anche il 50% anche da parte della donna, che comunque anche lì dovrebbe essere cresciuta in un modo, nella vita, avere la possibilità di avere certezze e sicurezza, di formarsi un carattere. Più autostima, più forza, certo. Certo, con auto, perché vedi, chi picchia, chi uccide, si crede onnipotente e vive un amore malato. Chi viene picchiato probabilmente non ha l'energia, la forza, la cultura per riuscire a combatterla, e quindi se la prende quasi come una cosa giusta. Sì, io ho sentito vero. Donne che dicono: mio marito mi ha picchiato perché ho sbagliato io. Violenza è terribile, non c'è senso, non esiste. Quindi è una serie di cause, forse anche nel mondo che viviamo, che ormai crediamo di essere tutti troppo forti, troppo onnipotenti, e l'uomo riesce ancora a crederci, ma sono comunque sempre persone che hanno vissuto delle esperienze in famiglie che, secondo me, e anche tutelate a volte dai genitori stessi. È vero. Mille, assolutamente. Grazie infinite per il tuo intervento. Stai andando in vacanza, Mille? Sei già in vacanza? Sì, diciamo che vivo in un paese di vacanza. Per no, cui... allora vuol dire che mi viene un attacco di bile, scusa Milena. Dove stai? Al mare, quindi? Sì, a Cogoletto. Ah, hai capito. Per cui sono a spiaggia, sul lettino, con degli amici. Anzi, che saluto Ivan e Betti, che sono qui, che mi ascoltano. Saluti a loro, basta che ascoltino Radio 24, poi il resto va benissimo. Assolutamente sì, grazie. Grazie Milena, grazie a te di aver chiamato. E sempre numero verde sentirei Donato da Lecce. Salve, sono Donato di Lecce, mio nome. Sono di Oleggio Castella Novara. Ah, vicino Novara? Sei di vicino Novara? Sì. Ah, sì, quindi sì. Quel da Lecce sarebbe di Lecce il cognome diretto. Vabbè, insomma, Valeria ha capito giustamente, uno sente Lecce e pensa che sia la città di provenienza pugliese. Benissimo, Donato, ma tanto siamo tutti uniti o no? O tu Lecce ritieni che sia da una parte e tu dall'altra? No. Scusa, non ho capito. No, dico, nessuna offesa, no? Alla fine, no, anche essere da Lecce. No, nessuna offesa affatto. Vabbè. Volevo giusto dire a riguardo di Berlusconi e Fini. Sì. Che ho l'impressione tutte le volte che quando si arriva a metà legislatura si siano assicurati la pensione a vita, il governo comincia a traballare. E poi un'altra cosa ancora veloce, ho l'impressione che Fini, quando abbia visto così tanto crescere la Lega Nord, a un certo punto ha visto che le sue possibilità di forse sostituire Berlusconi in futuro sono diminuite tanto da poter da non vedere più la possibilità di stare in questo governo, e quindi non c'era più convenienza. Queste due riflessioni. Cioè, quindi secondo te Donato in realtà Fini pensava di poter essere il delfino diretto di Berlusconi una volta la sua carriera fosse diciamo esaurita, la sua carriera politica, invece vedendo crescere la Lega secondo te ha detto beh a questo punto io non ho più spazio, allora tanto vale la rottura? Sì, questo l'ho visto dopo le ultime elezioni di qualche mese fa. Ho capito. Grazie Donato. Bene, grazie, ciao. Buona continuazione, buona giornata. Stefano Andreoli, le tue di opinioni hai ancora da esprimerle in base a quello che è stato detto? Beh, certamente sì, intanto sentendo queste code che infuriano su tutte le strade d'Italia mi è venuta in mente una battuta che è sul libro che abbiamo pubblicato più o meno di questi tempi lo scorso anno. Infuriava la polemica sulla pillola abortiva, la famosa RU486, sì. E noi scrivemmo, siccome la Chiesa si pronunciò duramente contro chi avrebbe utilizzato questo metodo abortivo, ha detto scomunica per chi prende la RU486 e inferno per chi prende la A14. Ecco, direi che effettivamente piuttosto infernali in questi giorni. A distanza di un anno è ancora valida questa battuta. Poi sono sempre verdi, quindi le vostre battute hanno anche questa qualità di essere sempre verdi, di non avere una data di scadenza in certi casi, no? In realtà sì, in certi altri casi invece, siccome il libro è una specie di almanacco degli ultimi 2 anni di avvenimenti, servono anche a riportare alla mente certe notizie, quindi diciamo che oltre a divertire hanno anche una funzione di archivio della memoria. Di archivio, memoria, effettivamente, quindi, sì. Diciamo, insomma, per farla breve, non fare marchette, è un libro veramente divertente. Ecco, detto in modo assolutamente imparziale, Antonio da Padova. Buongiorno. Buongiorno Antonio. Io vorrei fare una riflessione sul governo Berlusconi. Sì. Per capire anche come sono andate le cose e come stanno andando. Io vorrei dire solo questo. Berlusconi è un'ottima persona, secondo me, e anche è uno che vuole cambiare l'Italia. E questo è da dare, diciamo, atto che si è impegnato. Ma lui si è reso conto che persone si è messo attorno. Lui si è reso conto che le leggi che lui propone poi sono improponibili. Ha fatto questa riflessione? Quante volte sono state ritornate le leggi che lui aveva messo in calendario e anche approvato? Cioè, qualcuno deve fare questa riflessione, perché diversamente non si capisce perché le cose vanno così. Cioè Antonio, tu vuoi dire, stavo guardando le ultime agenzie, stai dicendo che non lo si fa governare, questo è il fatto? Non ho capito bene. No, lui probabilmente ha la voglia di governare, ha voglia di fare tanto, ma non sa governare perché non conosce quella che è la Costituzione e come proporre queste modifiche. Perché quando le propone poi sono incostituzionali, guardi quante cose sono tornate indietro. Cioè, voglio dire, lui prima di governare dovrebbe farsi una cultura su quella che è la nostra Costituzione e la nostra legge attuale, per poi trovare la forma di cambiare questa Costituzione nella democrazia, perché diversamente non andrà mai avanti. Antonio, chiarissimo, sei stato chiarissimo, e adesso direi, a proposito di chiarezza, di coinvolgere senza dubbio la mia linguista preferita in assoluto, che ogni settimana ci aiuta a capire meglio i termini della nostra lingua, anche i neologismi, le cose che cambiano. Per esempio questa settimana abbiamo sentito continuamente mozione di sfiducia. Valeria, la tua analisi su questo termine? Sì, allora l'analisi parte come al solito dalla parola mozione, che viene dal latino. Il significato originario del latino motionem era quella di movimento, e questo senso è rimasto nell'espressione che usiamo ancora oggi, mozione degli affetti, no? Quando alludiamo alla capacità di muovere gli animi, di commuovere chi ci ascolta suscitando sentimenti vivaci. Invece il senso del termine mozione, del termine con significato più recente, cioè quello di richiesta o proposta avanzata da uno o più membri di un'assemblea perché sia discussa e posta in votazione, ed ecco che da qui nasce poi il senso di mozione di fiducia o mozione di sfiducia nei confronti del programma politico del governo. Ecco, questo nuovo significato ci è arrivato attraverso la lingua inglese e poi attraverso il francese, cioè attraverso le lingue di nazioni nelle quali, prima di quanto non sia avvenuto da noi, sono nati i parlamenti e quindi la politica relativa. E la cosa curiosa è che ancora alla fine, ecco, con questo significato, quindi nella nostra lingua, dimenticavo di dire, la parola mozione è penetrata nel 1789, abbiamo anche l'anno della rivoluzione, l'anno esatto. La cosa interessante è che ancora alla fine del Settecento questo nuovo senso della parola antica mozione era censurato e condannato dai puristi, che lo condannavano proprio perché c'era arrivato attraverso l'influsso di due altre lingue, cioè l'inglese e il francese. Beh, insomma, come al solito, per concludere, che posso dire? Speriamo che le mozioni nei confronti del governo, cioè quelle di fiducia o eventualmente di sfiducia, provochino nei cittadini una mozione degli affetti. Voglio dire, speriamo che, dato lo scollamento di cui tanto si parla tra cittadini e politica, invece tutto si possa ricongiungere sulla base di un rinnovato interesse. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Grazie, come Valeria, come faremo senza di lei per comprendere la così complessa realtà, anche linguistica, che poi è legata a tutto il resto. Roberta Giordano, mentre vi sta per salutare, vi avvisa che le prossime tre puntate le farò monografiche su un tema in particolare. Poi da settembre riprendiamo un po' con i nostri commenti sulle notizie della settimana. Intanto, comunque sia, sereni orizzonti a tutti.